Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. 18 anni ridotto in fin di vita dal coronavirus che gli aveva danneggiato irrimediabilmente i polmoni, bruciando ogni capacità di respirare normalmente, salvato da un trapianto record al Policlinico di Milano. Ne parliamo a Obiettivo Salute insieme al professor Lorenzo Rosso, chirurgo toracico al centro trapianti di polmone al Policlinico di Milano, che ha partecipato all'intervento. Sì, questo ragazzo che era totalmente sano, in salute, senza nessun fattore di rischio, è stato preso in fin di vita dall'infezione da Covid e si trovava in un altro ospedale, precisamente a San Raffaele, dove è stato mantenuto in vita mediante la circolazione extracorporea per circa 2 mesi. Noi abbiamo colto la proposta dei colleghi di San Raffaele e abbiamo messo in lista urgente per trapianto di polmone questo ragazzo, che non aveva nessun'altra alternativa. I polmoni erano completamente distrutti e, una volta accertato che il virus non fosse più presente nel corpo, l'abbiamo messo in lista urgente nazionale. Dopo circa 2 settimane di attesa sono arrivati è stato proposto un donatore compatibile e abbiamo proceduto a fare questo trapianto di polmone bilaterale con successo. I polmoni funzionano, il ragazzo respira senza più bisogno dell'assistenza extracorporea e quindi questo per noi è un grandissimo successo. Professor Rosso, questo intervento perfettamente riuscito, quali prospettive apre per il futuro? Sicuramente apre grosse prospettive perché noi ci aspettiamo che diversi pazienti come questo ragazzo possano sviluppare o stanno sviluppando delle conseguenze irreversibili dall'infezione da Covid-19. Quindi essere riusciti a portare a termine con successo questo intervento apre la porta a una speranza per molte persone più o meno giovani che si trovano in una condizione analoga. La novità sta nel fatto che non avevamo idea che cosa questa infezione avesse generato nelle arterie, nelle vene a cui dovevamo collegare, diciamo, i nuovi polmoni, quindi che danni poteva aver fatto anche a livello vascolare. Il trapianto ha attecchito in modo perfetto. Ora si attende solamente il recupero fisico del ragazzo e il recupero della muscolatura per poterlo riportare completamente in piedi e ritornare a una vita normale come quella che faceva prima di questa tremenda infezione. Grazie al professor Lorenzo Rosso, complimenti e auguri. Obiettivo Salute Notizie termina qui. Per oggi è tutto, tra poco vi do appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per il nostro appuntamento a tu per tu. Oggi insieme a Maria Giovanna Luini, medico e scrittrice, parliamo del potere dell'amicizia. Buona giornata da Nicoletta.